Signori che venite ad ascoltare il coro delle donne di Magliano, il benvenuto vi vogliamo dare con sguardo aperto e con il cuore in mano. Dall'oliveto che guarda nel mare le nostre voci canterà lontano, siamo sorelle, figlie, mamme e nonne, siamo donne che cantano, le donne. La strada dell'amore va in salita, alle ragazze la palma d'ora. Gente, e sono arrivati i musicanti, forza gente, che chi non si mette a ballare questa serata sta male come minimo una mesata. Andiamo gente, chi balla balli e chi non balla stia alle prode, forza gente, andiamo. Thank you. biondona, bellona, di un valzere fatto alla buona. Forza gente, la canzone della malcontenta. È una ninna nanna, che è un pezzo tradizionale, ha almeno un centinaio di anni di età, e racconta di una donna che sta in casa e deve lavare, stirare, accudire i figlioli, fare tutto lei, mentre invece il marito tranquillo all'osteria a mangiare e bere e se ne frega abbastanza, e la lascia da sola a fare tutte le cose in casa. Naturalmente oggi le cose sono cambiate. Non è più così, vero signore? Non è più così. Oggi fanno tutto i mariti, i compagni. Bene, ok. Allora, cantiamo questa canzone, ahimè, non più attuale, la ninna nanna della malcontenta. Mm. Dunque, abbiamo una canzone che è molto adatta a questo luogo. È la prima volta che ci capita di cantare questa canzone che si intitola L'ulivo della strega in mezzo agli ulivi. È una sensazione un po' particolare. L'ulivo della strega di cui parla la canzone è un ulivo che ancora esiste ai margini del paese di Magliano in Toscana. Forse qualcuno di voi l'avrà anche visto, un ulivo millenario di più di 3.000 anni. Un ulivo sotto il quale si dice, si narra che anticamente, nell'epoca buia del Medioevo, nei secoli bui, si riunissero le streghe e facessero il loro sabba, le loro riunioni, i loro commerci con il diavolo. E questa storia ci è sembrata tanto bella, perché noi siamo, ci chiamiamo appunto le donne di Magliano, ci è sembrato giusto, doveroso anche dedicare una canzone all'ulivo della strega. Ricorditi di me, che son la pia. Siena mi fe, disfecemi maremma. Salsi colui che n'anellata pria, disposando m'avea con la sua gemma. Senza conforto e affetto, malata e sola. canto solitario che fa il pastore. Questa canzone è giusto ringraziare l'autore, che è il cantastore della Maremma, Mauro Checchi. Un applauso per lui. Queste sono le canzoni di donne che abbiamo cantato nel nostro CD. Chiaramente è lì, se qualcuno volesse continuare ad ascoltarci, può farlo. La prossima è una canzone importante per noi, perché così come la Pia è un personaggio che non si sa quanto sia storia e quanto sia leggenda, anzi probabilmente è più leggenda che storia, almeno parte, per come la conosciamo. La prossima canzone invece è una canzone delle donne di Magliano e parla di una donna che è stata una donna in carne ed ossa, proprio come noi, come le donne qui in questo Oliveto, una donna con i suoi affetti, con il suo figlio, con la sua passione, con la sua passione di combattente. Una donna che fu uccisa perché era staffetta partigiana e fu a un certo punto scoperto questo suo aiutare i partigiani e fu trucidata nei boschi vicino a Massa Marittima. Questa donna è medaglia d'oro al valor militare, una delle pochissime donne italiane medaglia d'oro al valor militare, Norma Pratelli Parenti. Più forte. Norma persa tardi fiato, ma nel bosco c'è un prato. Norma ecco che ti caccia, ora hai visto la sua faccia. Spesso il mare ha il fondo, ora il bosco si è fatto fondo. Ora il bosco si è fatto. Vivi in tutti noi, donne di ieri, di oggi e di poi. Sei nella sconosciuta stuprata, sei nella lesbica discriminata, sei nonna amica tradita, ma anche nella notte più dura c'è una norma che non ha paura. Grazie. Grazie a voi. Adesso vi cantiamo un'altra leggenda, la leggenda della bella Marsilia. La conoscete? La bella Marsilia era una ragazza giovanissima che d'estate veniva a villeggiare con la famiglia Marsilia, appunto, a Torre Bassa, una delle torri dell'Uccellina. È qui dietro di, proprio dietro di noi, alle vostre spalle. E a un certo punto ci fu un attacco dei turchi, perché tutte queste torri difensive sulla costa chiaramente venivano prese d'assalto. Ci fu un attacco dei turchi e la bella Marsilia fu presa e portata in Oriente, dove sembra divenne sposa poi di Solimano di un sultano e poi divenne madre di Solimano II. E qui noi ve la narriamo, la bella Marsilia. Thank you. laggiù in Fenia, vedi mossa dal vento. Canzoni che avete ascoltato, la canzone dell'Ulivo della Strega, la canzone dedicata a Norma Pratelli Parenti e questa canzone dedicata alla Bella Marsiglia sono canzoni originali delle Donne di Magliano. I testi sono di Cristiana Milaneschi, che stasera purtroppo non è potuta venire qui con noi, e la musica l'ho scritta io, visto che nessuno lo dice, i miei musicisti non me lo dicono, lo dico da sé. Grazie. Le gonne, l'avrei detto, datemi il tempo, lo rappresento sempre, sono opera di Dorina Canapini. Ma davanti non è questo che è molto bello. Le gonne sono una reinterpretazione di quello che erano i cartelli dei cantastori, insomma la versione femminile. Bene, adesso un'altra canzone originale che è dedicata invece agli uomini, a degli uomini molto particolari, gli uomini di Maremma, che sono... C'è un uomo particolare in Maremma che potrebbe essere, lei l'ha detto, i butteri, esattamente, i butteri di Maremma. Il vento ruba, sudora la fronte, briglia ribelli e mani pronte, parte adesso arriva un altro musicista, il gemello del percussionista Rocco Marconi, ecco qua, che lui invece suona la fisarmonica, quindi un applauso anche a lui. Anzi, approfitto di questo momento per presentare i musicisti, perché non l'ho fatto. Alla chitarra Alessandro Camaiti, al violino Andrea Frosolini, e poi abbiamo il duplex che è percussionista e fisarmonicista, Marco Ronconi. Al nome mio. E anche di questa canzone dobbiamo ringraziare Mauro Pichi. Adesso concludiamo con una canzone che è stata scritta a fine 800 e infatti è una canzone che è stata scritta a fine 800 infatti descrive un'Italia dove le persone emigravano, se ne andavano proprio, andavano via perché non c'era lavoro, quindi dice anche qui ci sarebbe lavoro, restiamo... Naturalmente è una canzone di 2 secoli fa, anche questa è tutto diverso, vero? È molto diverso, la cantiamo volentieri perché appunto Italia bella, mostrati gentile, speriamo che si mostri gentile prima o poi, visto che bella è sicuramente. Italia bella. Italia bella, mostra di gentile, e figli puoi non li abbandonare. Se Che dice, direttrice? Si può? Allora, io il bis ve lo faccio, però prima del bis dovete ascoltare la maledizione. Come no? Ascoltare, assolutamente. Ascoltare non significa che è diretta a voi, assolutamente. Però noi abbiamo alcune persone alle quali vorremmo dedicare questa canzone, non sono qui presenti nell'oliveto, credo, se non si sono nascosti dietro qualche millenario olivo, però la maledizione va detta, perché la maledizione è proprio tipica della nostra terra, il toscano, insomma, queste cose le fa. E poi, Andrea, volevi dire qualcosa a te? Perché ti sento, vieni a dire a che serve la maledizione, vai. Per favore, se lo no, dice il dottore, vedeteci. Lo dice il dottore, vieni dottore. Lo dice il dottore a che serve la maledizione. Attenzione, aprite bene le orecchie. La maledizione colpirà chi non si recherà al banchetto dove c'è Stefano. Capito? Sì, a prendere il nostro ultimo CD. Donne che cantano le donne di Magliano. Si inventa sempre nuovi modi, no? Ormai l'abbiamo sentiti tanti noi. Chi dice mal di me sia maledetto in una settimana, il lunedì gli venga il mal di petto, il martedì la febbre marmana, il mercoledì l'arrivi il prete a letto e il giovedì sia stesso nella bara, il venerdì rinchiuso nella fossa e il sabato distrutto in carne ed ossa. Si fa per scherzare, anche per rendere omaggio a un grande attore toscano, il Moni. Gira fino alla fine, che possano bruciare le lingue malandrine. Questo qui sono sicure che qualcuno ce l'ha una lingua malandrina dietro l'angolo. Che... Pronta, no? E gira, l'avete imparato? Sentiamo? E gira fino alla fine, che possano bruciare le lingue malandrine. Gira, tira fino alla fine, che possano bruciare le lingue malandrine. E gira, gira, gira, gira fino alla fine, che possano bruciare le lingue malandrine. E gira, gira, gira, gira fino alla fine, che possano bruciare le lingue malandrine. E gira, gira, gira, gira fino alla fine, che possano bruciare le lingue malandrine. E gira, gira, gira. Grazie a tutti dell'ascolto da parte delle donne di Magliano e a risentirci presto. Cercateci, chiaramente sui social, ovunque, ci potete trovare anche troppo, francamente. Grazie e buona serata a tutti. Ciao, portatevi a casa il nostro disco che porta fortuna.